Un gallo, una banderuola, un cane con una torcia in bocca. Chiedi a un andriese se sa descrivere il profilo della propria città. Non esiterà un istante, questo è sicuro, pur se dovesse risponderti dall'altro capo del mondo. È una selva di campanili, direbbe, e su tutti, per altezza, bellezza e prestigio, ne svettano tre, con le loro tre simboliche punte. Rintoccano sette volte le campane quando gli occhi scorrono sui tetti della città, sui piani irregolari, alti e poi bassi e poi alti di nuovo, sulle terrazze di pietra striate di muschio, sui profili di case addossate ad altre case e su quei tre campanili, appunto, capolavori in bianca pietra locale. Si coprono di riflessi dorati e rosati al calar della sera e si vedono ovunque ti trovi. Il primo dei tre campanili appartiene alla chiesa cattedrale. Si dice che sia stato edificato su un'antica torre longobarda e che i normanni, qualche secolo dopo, lo abbiano ristrutturato e sopraelevato. Gira al vento, in cima all'edificio, un antichissimo gallo di ferro. Simbolo cristiano, chiama alla penitenza e alla vigilanza ed è icona del Cristo. Veglia da secoli sulla città, lì in alto a dividere con il suo canto la notte dal giorno, aspetta che i dormienti abbandonino le tenebre. Poco più lontano è il secondo campanile, il campanile della chiesa San Francesco. Sulla sua imponente base poggiano due piani a pianta quadrata, alleggeriti da finestroni e balaustre, ed un terzo piano ottagonale. Li sormonta una cuspide, anch'essa ottagonale. Il motivo a otto lati richiama l'antico castello federiciano di Santa Maria del Monte ed è simbolo inequivocabile della città. Più slanciato del primo, il campanile di San Francesco proietta la sua ombra elegante sulla sua chiesa e sul magnifico chiostro dell'antico monastero a essa associato. Edificio di malinconica bellezza, il monastero francescano divenne un carcere nei primi anni dell'Ottocento e poi sede della centrale elettrica per l'illuminazione cittadina sul finire dello stesso secolo. È stato oggi finalmente restaurato, riportato al suo antico splendore e restituito alla sua città. Gira al vento, sopra la chiesa e sul suo bel chiostro, un'antica banderuola di ferro battuto che orna il campanile di San Francesco. Infine il terzo, il campanile della chiesa San Domenico. È il campanile più alto, supera i 50 metri di altezza ed è in stile barocco. Si sviluppa su tre piani con eleganza, poggia su un robusto arco sopraelevato sul corridoio dell'antico convento domenicano. Si affaccia su un piccolo slargo, in mezzo alle case ammassate del centro storico, in uno spiazzo su cui stanno la chiesa e il complesso conventuale dedicati al santo. La sua banderuola, la più alta della città, si erge su una grande sfera di bronzo. Ruota su se stessa al vento e ha la forma di un cane con una torcia accesa in bocca, simbolo dei domenicani. Un gallo, una banderuola e un cane con una torcia in bocca.